Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vivo in una piccola città della Cina dove gestisco un asilo. Una delle mie insegnanti mi chiede: cosa ascolti tutte le mattine nelle cuffiette? E io le dico: amica mia, amica mia. È passata una settimana ed ora, per un massaggio romantico, oh oh, per una notte romantica, ah ah, è proprio un bel posticino. Culo niente. Ma come culo niente? Culo niente. Siamo al top. Siamo al top, Cruciani, siamo al top. Abbiamo passato metà giornata di oggi, caro David, sì, a cercare di capire se veramente Savini ha pronunciato quelle parole. Mamma mia, no, pulizia, ma oggi sono depresso, etnica, non mi interessa niente di niente, niente pulizia di niente. Depresso, etnica, depresso. Perché sei depresso? Perché ho passato un weekend bellissimo, rilassante, cioè, ma che c'entra? L'inizio settimana mi ha depresso, totalmente depresso. No, dai, su. Ecco, forse un po' sentire quel massaggio romantico, ecco, quello forse un po' quel signor Ruggero dei timidi, quel signor Ruggero, buon Ruggero, forse dei cari. Però una depressione. Adesso guarda, abbiamo passato, ripeto, comunque, mezza giornata a cercare di capire se Savini avesse detto una frase razzista o meno. Tutti quanti hanno gridato sul web al razzismo di Salvini, direi, non solo al razzismo. Era tutta una cazzata. Per carità, poi può darsi pure che... Però se la gente, evidentemente, siccome conosciamo Salvini e conosciamo le sue sortite, è chiaro che no. Allora, sembrava che avesse detto: vogliamo fare una pulizia etnica degli immigrati, una pulizia etnica. Non è vero niente, non era vero nulla, niente. Però sai, era vero nulla. Ma no, perché pulizia etnica non lo dice, magari ce l'ha in testa di fare la pulizia etnica. Beh, ha usato un altro termine in queste settimane: sostituzione etnica. No, quello è diverso, sta dicendo. Ah, è diverso. Ecco, magari è sbagliata l'analisi. Scusate, fermi tutti, fermate le macchine, sta parlando l'esegeta di Salvini. No, un momento. Sto dicendo. Noi con Cruciani, sta interpretando noi con Salvini. Noi con un Cruciani è un altro movimento. Sì. Un altro movimento totalmente gemellati anarchico. Siete. No, assolutamente no. Però. Totalmente anarchico. Anarchico, senza regole, noi con Cruciani, ma con alcuni spunti, con alcune idee, con alcune cose che uno vuole fare. Sì. Noi con Cruciani non può appartenere né alla Lega né all'estrema sinistra. No, prende infatti, dall'estrema sinistra, dall'estrema destra, dal centro, perfino da Rotondi. Va da Rotondi a Casa Pound, e dall'estrema sinistra, dall'estrema sinistra fino agli anarchici. Ci può essere tutto dentro tutto, noi con Cruciani. Sì. Tutto. Comunque, la frase sotto accusa di Salvini alla fine era questa. Sentite. Ragazzi, avete visto la schifezza calabrese? Il parroco arrestato, il presidente di una di queste associazioni di volontariato arrestato. Vedremo di adottare ogni mezzo possibile per fermare questa invasione, legalmente permesso o quasi, perché siamo di fronte a un tentativo evidente di pulizia etnica, di sostituzione etnica ai danni di chi vive in Italia. Guarda, se vi leggo i commenti, io appena mi sono sbagliato stamattina, ho letto questa roba qua, cioè verso appena mi sono sbagliato un po' di ore dopo, e ho letto pulizia etnica, vergogna, razzismo, questo invece... non è solamente razzismo. Ha detto quello che dice sempre, contestabile naturalmente, che è quello. Salvini sostiene che in questo momento sia in atto una sostituzione etnica. Eh beh. No, cioè che stanno portando talmente tanti immigrati. Secondo lui, ma secondo lui, che siamo in presenza di una sostituzione etnica. Ma non è che ha detto che bisogna fare una gravità inaudita. Ma non lo so, non ha detto. La parola sostituzione è di una gravità inaudita, inaudita, con i morti che ci sono stati in mare, dei bambini. Comunque sai che di Lampedusa, ragazzi, ma è una vergogna. Sai che ti dico una cosa. A parte che ha detto che bisogna bloccare fisicamente gli sbarchi, ha detto bloccare fisicamente. Sì, come si fa? Si butta lui in mare. Non lo so. Stiamo valutando ogni azione possibile per bloccare anche fisicamente, materialmente, gli sbarchi che ormai sono una emergenza nazionale. A proposito di immigrati, forza. Lui è Zuccaro, sì. Lui è il PM. No, non mi pronunciare questo nome che mi fai godere subito. Non mi fai godere così. Appena pronunci il nome Zuccaro, godo. Non me lo dire, così. Godo. Se godi con questo dimmi Zuccaro, ti prego, dimmi Zuccaro. Zuccaro. Ma ti pare che una porcheria. Sta trasmissione comunque mi dici, ma che c'entra adesso? Che c'entra? Non abbiamo detto Zuccaro. Amico mio, godo, non mi fare godere. Ma è una porcheria. Ma che schiena, una porcheria inaudita. Ogni volta che nomini il nome di Zuccaro, un uomo tutto d'un pezzo, un magistrato integerrimo, lodato anche dal procuratore di Catania, di antimafia, come si chiama, Gratteri, uomo tutto d'un pezzo, il quale ha acceso una luce, ci ha dato un orizzonte, andiamo avanti. Adesso ci stiamo lavorando, stiamo lavorando noi con Cruciani. Ecco che ha dato una mano a Zuccaro, ecco, giusto per dargli la botta finale. Mamma mia, ma sei una porcheria. Godo. Zuccaro mi fa godere, mi fa godere, che ti devo dire? Mi fa godere. Comunque, che ti stavo dicendo? Mi hai fatto malato mentale. Salvini stavi dicendo. No, bloccare fisicamente gli sbarchi. Stavo dicendo un'altra cosa. Sì, mi hai fatto perdere il filo, dai, su, mi hai fatto perdere il filo, sei... Ah sì, Salvini mi ha citato durante la conferenza dicendo che non mi lavo. Vabbè, ho capito. Quale conferenza? Signor Salvini ha fatto una conferenza. Non cambio nome, non cambio la camicia perché è opportuno farlo. E che ne pensi, Cruciani? Cerco di farmi la doccia e cambiare anche l'intimo. Però non ho la smania di cambiare nomi e cognomi. Questo perché dopo la vittoria alle primarie della Lega gli hanno chiesto se la Lega cambia nome oppure no. Allora, ti stavo dicendo che Forza Nuova e i signori di Forza Nuova hanno preso per il culo la Serracchiani offrendo la tessera onoraria di Forza Nuova, la signora Serracchiani, dopo le frasi sugli immigrati, sullo stupro degli immigrati, stupendo. Sallusti, senti. È ovvio che se tu salvi una persona in mare, la curi, la rinfocilli, fai delle robe, poi questa ti viene a stuprare una tua donna, insomma c'è un aggravante morale di una persona che oltre che a essere un vigliacco, oltre che a essere un bastardo, è anche un irriconoscente, è anche un approfittatore. Travaglio, le violenze sessuali sono una specialità di noi italiani. Adesso mi permetto di dire che questa mi sembra una puttanata pazzesca, eh? Cioè, al di là del fatto che lo stupro commesso da un immigrato, come dice la Serracchiani, è più riprovevole perché noi li accogliamo, questo lo dice la Serracchiani, non lo dico io, una del PD, lo dice la Serracchiani, una del PD. Ma tu dovresti essere d'accordo però con questa roba. No, non sono d'accordo, è un'analisi corretta, non sono d'accordo, me ne frega niente. È un'analisi corretta. Cioè, ci incazziamo di più. Parli come Stefano Folli, è un'analisi corretta. No, ma non me ne frega niente. Sì, sono d'accordo con la Serracchiani. È una follia. Sono d'accordo con la Serracchiani. Ecco perché ogni volta che dici una follia, tu sei d'accordo con le follie. Travaglio. Ma è noto che le molestie e le violenze sessuali in Italia vengono commesse per i 9 decimi da italiani a danno di italiane o di straniere che stanno in casa perché prestano servizio. Quindi è proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra, no, è purtroppo perché... una specialità di noi italiani quella di trattare male le donne. Io non so a cosa si riferisca, certo. Travaglio. Cioè, vuole dire semplicemente che i dati, un dato, che i dati, esatto, dimostrano, punto, che all'interno dell'Italia il 99% delle, certo, violenze sessuali sono commesse da italiani nei confronti degli italiani. Appunto. Ma non è una specialità di noi italiani trattar male le donne. No, è una specie, sono reati che vengono commessi da italiani, questo. Comunque, ti ha detto. Devo, non dirti una cosa, sono andato ieri a una sì, fiera dove vado sempre per cercare personaggi, sì, curiosi. Oh, una fiera d'arte, meno male. No, no, una festa di oggetti, bravissima, militari, di oggetti, oh, militari. C'era anche il signor Borghezio, c'era anche il signor Borghezio. Ma perché non puoi frequentare i posti normali, un cinema, un teatro, non mi interessano i posti, la biennale normali d'arte, non mi interessa, no. Ho incontrato il solito amico mio Veschini, sì. Veschini, sì, grande collezionista, di collezionista, insomma è uno, sì, che ha dei reperti fascisti o delle cose simili fasciste che vende. Tu vorresti proibirglielo, tra l'altro? No, vorresti proibirglielo? No, però signor Veschini, che si è inventato una cosa straordinaria, la pasta fascista, pasta? Stupendo, che ha venduto, vabbè, venduto tonnellate di pasta, tonnellate, cosa, no, la pasta, chili, chili. Ah, cioè, a forma di pisellino? No, a forma di fascio. Perché sai che ci sono le minchiette? No, cioè, no, no. Invece un, cioè, una pasta che a forma di fascio littorio e una pasta a forma di testa di Mussolini, ti giuro. Mamma, la pasta fascista, stupenda. Adesso la mando il coso. Cioè, no, a parte che me l'ha regalata, cioè, l'ho pagata. Ma ho le foto, te le mando. L'hai pagato o te l'ha regalata? No, no, l'ho pagata, 5 euro due pacchi. 5 euro due pacchi. Dice che mi ha fatto lo sconto, se me mi ha fregato. Pensa a te. Luciani, sei una checca isterica. L'altro giorno sono andato su Twitter, non avevo niente da fare, e sotto i post di Matteo Salvini ho cominciato a commentare e a rispondere scrivendo cose che avrebbe potuto scrivere il buon David Parenzo, così per vedere che effetto faceva. Non ho potuto fare questo giochetto per 10 minuti, che sono stato massacrato dai suoi lettori che mi minacciavano di morte, mi dicevano devono entrarti gli zingari in casa, devono ammazzarti, rubarti tutto, eccetera eccetera. David, fai tanto il gallo sulla radio, ma comincia a twittare anche tu a Salvini e ad affrontare il suo popolo, lotta insieme a noi, esci dalla fortezza, vai in campo, maggioranza silenziosa, avanti, no pasaran. Ma io sta maggioranza silenziosa, però parenziana, siamo francamente tanti. Non la vedo, tanti, non la vedo, tanti, non la vedo. Siamo tanti, inseriti nei gangli più importanti della società, dai vertici più alti sino ai lavori più umili. Ma cioè, quando mai, sì, siamo soprattutto nei vertici più alti, sì. Tra i vertici più alti, so, anche, sì, nei lavori, anche nei lavori più umili. Siamo, sì, maggioranza silenziosa, paese reale, vero, non come te che fa macelleria sociale di imprese. Noi siamo gente che lavora. A proposito di imprese, ecco. quanto godo per questa vicenda. Della Lidl, quanto godo, amico mio, un po' godo. Per cosa carità, c'entra? Per carità, sono ancora inchieste, non è provato nulla. Però quanto godo, subito dopo la notizia del licenziamento di due lavoratori che dovresti difendere, tu invece difendo io. Due lavoratori della Lidl che hanno messo nel gabbiotto, sono in un gabbiotto, ma quando mai? In un gabbiotto due rom, una, cioè, così, una delle quali rideva, sì, una delle quali rideva, beh, rideva, licenziati. Subito, vabbè, dopo arriva una bella inchiestuccia, sì, una bella inchiesta con il commissariamento indirettamente di 200 supermercati della Lidl, compagnia tedesca, diffusissima anche in Italia. Ma non ho capito, quindi infiltrazioni, cosa vuol dire? Mafiose. Posso dire, verità, non dovrei dirlo, ma un po' godo. Ah, godi quando non un'azienda viene messa in crisi? Non come quando mi nomini Zucchero. Appunto, chi indaga sulla Lidl? Zucchero? Ci sono le prove? Ci sono le prove? Chi è che sta indagando? La Boccassini. Boccassini è molto seria, mi piace Boccassini. Uno che sicuramente apprezzi, però, si chiama Alilovic ed è parente di una delle, no, della famiglia che ha, sì, avuto quel lutto, quel lutto terribile persone delle bambine, delle bambine. Signor Alilovic, no, tre persone, come facevo dire, tre bambine, due tre ragazzine, ragazze, e una ragazza di 20 anni. Questo, no, Alilovic, questo Alilovic, questo Alilovic, perché lo chiami Gianni questo? Alilovic dice che occupa, però siccome è patrimonio pubblico può occupare, senti. Io sono fortunato perché, come ha visto lei dai servizi, i campi Rom. Ma dove vive? Non sono gestiti dal comune, sono gestiti male. Sì, Alilovic, dove vive lei? Io non vivo dentro a un campo nome perché dove? Non voglio stare in quella roba là. Io per scelta ho occupato un patrimonio pubblico. Ah, lui per scelta, il signorino, ha occupato il patrimonio pubblico. cioè si è messa a occupare uno stabile e dice pure di avere ragione, capito? Una roba incredibile, dai, su. Mussolini contro Halilovic, senti. Mussolini, allora, visto che già prima era un po', la vedevo alterata, alterata, perché se noi facciamo parlare una persona che è andata ad occupare abusivamente, lo dice così tranquillo, lo quando ci sono gli italiani che non riescono neanche a trovare un affitto, signora, quindi perché non noi le domande popolari, le case di parlare, le abbiamo sempre fatte. Questi fanno un mercato a cielo aperto, è tutto tollerato. Allora diciamo che ormai c'è un razzismo all'incontrario, cioè nei confronti degli italiani. Ma gli lei italiani è matta, non possono Mussolini, fare è matta, come si permette a dire una cosa del genere? Non è così, perché il razzismo è stato fatto no, dalla parte dei fascisti allo sto punto, perché case, sono state bruciate 3 persone vive. Strada, non capito, niente. Signora? Ma basta, ma basta. Sembrerebbe basta. Non centrare. Facciamo i mercatini, anzi noi se è proprio per quello, proprio perché questa siete dei sozzoni che lasceranno la monnezza per strada. Dite eh? Le verità, avete noi, un purtroppo, sacco di vostra, soldi dietro la vostra monnezza. No, calmi, noi calmi, dai, per favore. Cosa. Ecco cosa facciamo. Dai, fermatevi, fermatevi un attimo. La trasmissione ovviamente era dalla vostra parte. La Mussolini che dice voi rubate, siete pieni di soldi. E il Rom che dice voi italiani siete zozzoni e lasciate la monnezza per strada. Anche questo, anche dalla questo è dalla vostra parte. Francesco, provincia di Matera, vai. Dimmi Francesco. Crusani, io volevo dire, visto che ti batti sempre per delle cause giuste delle volte. Giusto, no, non lo so. Dimmi, che è successo? Per ridare la fattoria. Volevo sentire che ne pensavi se sui 30 milioni che sono spariti dall'isola di Capizzuto sul dal centro immigrati. No, che non si sente bene. Sì, la mafia che gestisce, ma non mi stupisco. 15 anni, dove sono finiti? Hanno arrestato pure milioni, il prete, come hanno arrestato per farli rientrare nello Stato, per far rientrare i soldi di Formigoni, per far rientrare i soldi sì, di beh, adesso che c'entra Formigoni, un'altra cosa. Cioè, allora, questa sarebbe una manovra. Sì, però Francesco, cioè, la notizia è gravissima quella di oggi. Che cosa dimostra, Parenzo? Dimostra che dimostra questa accoglienza che, sì, che l'accoglienza dei migranti, è inutile che tu dici che tu parli, è diventato un grande business da anni. Il problema sono i ladri, non l'accoglienza. Ma che cosa dite? Angelo Roma, Angelo, Angelo da Roma, vai Angelo. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Io la stimo molto, però sì, certe volte mi viene il dubbio, anche se fa il gioco delle parti con Parenzo, che noi creiamo, primo sentito dire la Mussolini, come mai nessuno ha parlato di quei quattro ragazzi che al Verano hanno devastato 70 tombe ebraiche? Perché bravo, non quelli degli italiani? Bravo. Che cosa hanno a che fare? Sono degli imbecilli anti-ebraici, anti-ebraici, sì, anti-semiti, ma io sono preoccupato quando telefono alla gente. E lei non interviene spesso, è chiaro, sempre per il ruolo che lei rivolge, il fatto quello sporco ebreo, quell'ebreo di Parenzo è una vergogna, perché bravo, così si fa pessima cultura. Grazie. Perché un ragazzo 15 anni fa 150.000 euro di Angelo, danni delle tombe che Angelo, grazie Angelo, pagheranno bravo, i genitori, bravo, ma Gasparri, la Mussolini, tutta Salvini, come mai non parla nessuno un fatto Angelo, così grave? Angelo, bravo Angelo, padre, bravo Angelo, ne hanno parlato. Il paese vero è questo qua, che è sensibile, che capisce, sì, che sa calmo capire qual è il dramma vero e quali sono invece le puttanate. Beh, tipo oddio, quelle che vengono, il dramma vero che le tombe, il cimitero le ebraico profanato, sì, è un atto di una violenza inaudita. Però, venite Angelo qui, venitevelo a prendere coi vivi, venite coi vivi, siamo qui pronti ad aspettarvi fascistelli, venite coi allora vivi. Vivi, coi vivi, qui non coi morti, coi vivi. Dai, calmo. Siamo pronti, sì, siamo pronti. Come lo qui erano pronti Golda Meir, come era vabbè, pronto Moshe Dayan, come era pronto Yitzhak Rabin. Siamo qui pronti con la faccia. Benissimo. Venite qui, maledetti. Allora, venite dico una qua cosa: maledetti, che qui possono parlare tutti per no un semplice motivo, maledetti, anche quelli che dicono sporco ebreo, eccetera, eccetera, senza maledetti nessun tipo di problema. Se uno poi dice delle cose, denuncia, quello è un altro discorso. Quello è l'inex dei Mancino. Fermo lì. Cruciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti spaccherò la faccia se non mi racconti. Comunista di merda? Ma non mi importa se non mi ami più. Quel nano malefico. Non mi importa se non mi vuoi bene. Dovrò soltanto reimparare a camminare. Eh? Se non ci sei tu. Comunista. testa di merda. Eh? Ma buonasera, buonasera miei piccoli schifosini. Parezzo, non si entra nell'angolo rotture della zanzara. Figa Cruciani, hai sentito quelli della Lidl? Avevano licenziato quei due là che hanno chiuso la roba nella gabbia per salvaguardare l'immagine e poi sono sotto le mani della mafia. Ma... Guagliù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fa l'800024-0024 oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701. La versione napoletana dei numeri di telefono. Attivisti del PD in strada a pulire Roma. Berlusconi annuncia se si scopa arrivo anch'io. Però al di là dell'ironia, ragazzi, è il titolo di libro, vogliamo parlare del titolo di libro. Stupendo, meraviglioso. Allora, stupendo, geniale, quasi dadaista, è un titolo stupendo, dadaista. È un titolo meraviglioso. Ma cioè, è un titolo normale, sì, ma frega proprio niente. Ma scusi, Feltri, che titolo è questo qua? Ripeta il titolo innanzitutto, il titolo di libro di oggi. Ma frega, se mi interrompete in continuazione, ma frega niente, vado via, mi interrompete. Ma perché no, devo qui non ti sto interrompendo. Perché devo venire qui a parlare con voi? Ma compare, ma non me ne frega niente, vado a mangiare al Baglioni, 200 euro d'accordo, vabbè. Ma non me ne frega qui, niente in di questione voi. Qui c'è il titolo che voi avete fatto questa mattina, ma no, certo, Renzi abbiamo... e Boschi ma non scopano, scopano. Gli altri dem invece lo fanno, no? Evidente, è un dato di fatto, mi pare. Abbiamo detto cosa semplice, normale. Scoppano tutti in questo paese, non si può dire. Renzi e Boschi non lo fanno, abbiamo messo del titolo, basta. Non frega niente, nulla, zero. Comunque ragazzi, ma che buffonata è quella di andare a pulire le strade di Roma? No, mi sembra una bella iniziativa. Ma dai, su, ma è una buffonata, dai. Mi ricorda le iniziative perché... che facevano i Missini negli anni 80, negli anni 90. Vabbè, ma vabbè, dai, ma è una buffonata, dai ragazzi. Si pulire... chiama politica. Ma non è politica quella, è una si buffonata. Politica, lo posso dire, io ho diversi amici che l'hanno fatto, è una buffonata. Perché è una buffonata? Riprendersi una la buffonata città è anche inaudita. Una bella cosa pulire, sociale, ma che, civile. Ma che pulisci cosa, dai? Dai, su, c'hanno delle signore con la borsa di Prada, ma dai. Che c'entra su la borsa di Prada? Ma dai, ma che buffonata è, dai. Allora, durante il fine settimana c'è stato un caso qui vicino Milano, a Buccinasco, paese proprio alle porte di Milano, sempre in odore di 'ndrangheta. Sì, molto. Cosa è accaduto? Pochi giorni fa è stato scarcerato, dopo 20 e per rotti anni di 41 bis, un signore che si chiama Rocco Papalia. Tra l'altro la cosa abbastanza strana di questo signore è che è stato condannato a oltre 100 anni di prigione per vari reati. Sì, solo che... in Italia accade che è libero adesso, cioè libero, è in sorveglianza speciale, eccetera, eccetera. L'Italia è un paese così, anche uno condannato con reati pesantissimi, eccetera, eccetera, dopo 20 anni di 41 bis esce e va a casa. Va a casa ovviamente sotto sorveglianza speciale, primera domiciliari, quello che vi pare, ma sempre libero è. In questo caso è stato libero di andare alla comunione di non so quale nipote. C'erano dei giornalisti là intorno. Sentite come sono stati accolti dai signori Papalia e and Friends. Vaffanculo. No, no, no, ma Lisa, per favore, per favore. Come è andata la cerimonia? Per favore, basta. Ma non si vergogna, basta. Basta, fammi chiamare, ma devo chiamare i carabinieri, ma devo arrivare a questo punto, ma non vi vergognate. Salta che fai in foto, come hai fatto a Jerry. Ma non avete un cazzo da fare, È una cosa importante. Ma di cosa è importante? Ma si rende conto in Italia cosa abbiamo? Ma non vi vergognate? Ma è un uomo libero, è un uomo libero, è un uomo libero, basta! Poi ha detto anche cani. Cani, non è che si sente tanto. Ma chi è cani quella che protesta? Chi la figlia, la nipote, la figlia di Papalia. La figlia di Papalia, con accento, come avete sentito, del nord milanese, certo, al contrario del padre, che è chiaramente calabrese. A me, ragazzi, non me ne frega niente. Uno vuole andare alla comunione della nipote, va benissimo, per carità. Io contesto il principio che uno che pare sia stato condannato a non so quanti anni di galera sia già libero. Cioè, uno considerato... Beh, in realtà non penso che sia libero. No, ma non libero al 100%. È ristretto, ma avrà avuto un permesso per partecipare, no, così come lo racconti, no, tu. In realtà comunque è un sorvegliato speciale, ho capito. Ragazzi, non questa è libero, gente comunque. Qui per il ma tipo sì, di reati che ha fatto, questo siamo d'accordo, in un altro paese sarebbe in galera a su vita. Adesso non mi voglio fare nemica anche l'andrangheta. No, vabbè, già... quello sai, questo cioè, sarebbe in galera a vita. Comunque, sulla questione della polizia non delle città, non insultare la gente, sì, che va a riprendere questo, lì. Ma questo, dai, non c'è dubbio, su questo hai ragione. La mia polemica con te è su un'altra cosa, perché hai attaccato quelli che puliscono sì, le strade. Sì, noi li ho attaccati, ho detto che è una buffonata. Sì, ma perché sei insensibile. Mi ricordano in realtà invece che c'è un'associazione che è nata proprio a Roma, che si chiama Rete Roma. Ma sono i tuoi amici democratici. No, non è il PD, fatta di cittadini volontari che ma puliscono un altro i muri discorso. Imbrattati e le strade. Ma questa è un'altra ragazzi cosa. Ragazzi meravigliosi che perdono il loro tempo per riconquistare ma spazi cosa civili. Ma che luoghi, parli per slogan. Come che slogan? Parli per slogan. Retake Roma. No, ragazzi, capito? Ma non c'entra nulla. E questi vanno incoraggiati, questi ragazzi. Ma di questi tuoi marchette vai non tu. Me ne frega un cazzo. Non è una marchetta. Vai una tu. Anziché andare, ma non li conosco neanche. Anziché andare, me l'hanno segnalato. Anziché andare alle fiere militari dove vendono paste a forma di con la testa di Mussolini, assolutamente, passa le tue domeniche a ripulire la città, a ripulire i muri. Ma io non vado a ripulire un cazzo, dovrebbe essere compito dell'amministrazione comunale. E allora almeno ringrazia questi sto ragazzi dicendo, meravigliosi. Ma quello non che me ne frega posto niente. Tuo ti con grande civismo. Un ti piace la parola sì, ma ti civismo? Vuoi fermare? Tu ci sono questi civismo. Tizi qua del Partito Democratico con la maglietta gialla si sono messi a pulire la città. Mi permetto politica. Di dire che è una buffonata. Perché i guai di Roma non sono stati, a me duole dirlo nel senso che non me ne frega nulla, non sono né amico della Raggi, non sono vabbè stati creati dalla Raggi. Ma cosa c'è? Ma sono creati dalle amministrazioni precedenti. Sì, vabbè, poi Grillo dice le sue puttanate con i due convertitori là, che già in realtà ci sono, dovremmo ispirarci al modello Barcellona, tutte puttanate. Ma i guai di Roma a livello di gestione dell'immondizia non sono stati creati dalla Raggi. Paolo da Rimini, anzi Luigi della provincia di Foggia, dai. Luigi, provincia di Foggia, dai. Buonasera, salve, dimmi, salve. Dimmi. Senta, volevo dire a Parenzo, Parenzo, ma siamo ancora nell'epoca di Peppone e Don Camillo con queste contrapposizioni fascisti, comunisti, ma insomma, la vogliamo superare? Ma di cosa stai parlando, cosa scusami, se Luigi? Parlavo del fatto basta di prima, sulla Pavlovic, quella occupazione, insulta ai fascisti, comunisti. Vabbè, Luigi, non ho capito un cazzo, ciao, Elia da Roma, dai, Elia. Bravo. Via, eliminato. Elia, dimmi. Elia? Elia? Forza, Elia, chi è? Pronto? Elia, dimmi. No, io sono Francesco, no Elia. Va bene, Francesco, ragazzi. No, cerchiamo... una domanda al volo proprio. Sì. Stanno entrando 1000 immigrati al giorno, se non sbaglio. Dove? Sì. Secondo lei? Sì, in Italia molti immigrati stanno entrando. Che a te ti piacerà, lei, ad altri non piace. Sarà permesso, no, che a qualcuno no, non piaccia, dico a Parenzo. Non piace la stupidaggine, ma che si sì, piace? Voglio dire, possiamo sopportare un'entrata del genere? Elia, non lo so, parla bene innanzitutto, ma perché se no non ti sento. Cosa da dove stai parlando? C'è l'auricolare, via voce, dove sei? No, c'è via voce, scusami. E allora levalo, su, dai, non rompere i coglioni. Ti sento, sì, ma non rompere il cazzo, no, questo auricolare. La domanda seria, voglio dire, stanno veramente entrando 1000 immigrati al giorno. Ma li possiamo sopportare questi mesi, un anno, ogni tanto entrano anche 1000 al giorno. Cosa, ogni tanto, ma questo li dà per come assioma, cosa dei 1000 immigrati al giorno? Gente, sì, sì. Sono pochissimi rispetto alla media europea. Ma non è vero. Non è vero, è una assolutamente. La risposta di Parenzo è sì, possiamo sopportare anche decine di migliaia di arrivi nei primi mesi del 2017. Secondo Parenzo, qualcuno ha ragione sotto questo punto. Si può creare una grande economia dell'accoglienza fatta con le stati, si è visto con la mafia, certo. Fatto con onestà. Ma si può creare l'economia dell'accoglienza? Marco dalla provincia di Chieti, una follia totale. Sarebbe come dire che non si fanno più le opere pubbliche perché i politici rubano. No. Dice, allora, ma sì, è Marco, provincia di Chieti, dai. Invece si può fare una politica dell'accoglienza. Dimmi, dimmi. Ciao, niente, io volevo proporre un modo per far rompere i coglioni a quelli della Lidl su tutti i punti vendita. Cioè? La protesta tua va bene, ma fino a un certo punto, secondo me è meglio riempire i carrelli di fretta e lasciarli in mezzo alle corsie o lasciarli alle carte e non pagare. Fa più effetto, vedi, tempo tre giorni devono riassumere quei ragazzi suoloni che di quali cioè, che qual è la tua proposta? Riempire i carrelli? Riempire i carrelli di spesa, sì, e non pagarli, lasciarli in mezzo alle corsie, sì, alla cassa e uscire fuori vuoto, capirai, così solo per rompere i coglioni. A posto di non andare, che non fa effetto per fare la spesa, andare, riempire i carrelli e non pagarli. La proposta di Marco dalla provincia di Chieti: andare alla Lidl, riempire i carrelli di spesa e lasciarli lì davanti alle casse. Non ti possono dire un cazzo, logicamente. Cioè, a stretto, come dire. Come ti possono dire niente? Certo. Non ti possono dire nulla, assolutamente. Entri là, riempi di spesa e poi dici: ci ho ripensato. Vaffanculo. No, ci ho ripensato, li lascio lì. Mi sembra una testa intelligente. No, ma intelligente. Non lo so. Marco dalla provincia di Chieti propone questa cosa. Pensiamo, Marco riflettiamo. È l'unica trasmissione al mondo dove Marco dalla provincia di Chieti, che dice una fesseria megagalattica, vale quanto il signor della Bini Smaghi. Ma ti rendi conto, Marco, che dici? Tu immagina se tutti disoccupati per solidarietà fanno una cosa del genere e lì dal tempo a tre giorni devono riassumere quei due ragazzi. Adesso, questo non credo, questo ecco, non credo. Appunto, però ci si può pensare, fare una grande operazione di protesta, riempire i carrelli della spesa, lasciarli lì in mezzo al supermercato, mettete in crisi le aziende, davanti alle casse, davanti alle casse. Bravi, bravi. Davanti alle casse e poi andarsene in tutta tranquillità. Cari amici della Lidl, cari amici, non è finita qui. Dai, dai, dai, cazzo! Dai, dai, dai, dai, dai, zucchero, non si molla un cazzo. Siamo tutti con te. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Zucchero, la la la la la. Zucchero, la la la la. Dai, cazzo! Eccone un altro. Negri, negri dappertutto, al parco, per strada, al bar, davanti a casa mia finché taglio la legna, ci sono negri dappertutto. Io non li sopporto più e non sopporto più voi, voi fiancheggiatori. Vi cercheremo uno ad uno, vi cercheremo tra le linee dei nostri nemici e tu, Parenzo, sarai il primo. Che tu sei un bastardo si sapeva già, che tu sei un razzista di merda si sapeva già, sei un sciarognar, sei un lescudo Salvini, sei un gran tassa di cazzo, are, smettila, a te basta solo che siano neri, muslim, te parte la broca, sei un bastardo, cretino che sei altro. Ottimo. Ottimo. Sempre spada di fuoco. Ottimo, questo, eh? Molto bene, è bravo, sempre bravo, spada di fuoco. Bravo, bravo ragazzo, sempre spada di fuoco. Bravo, piace molto. Dai, poi moderato, su. E sincero, dai. Bravo. Appassionato. Dai. Bravo. Mario Pescara, vai. Cara, grazie, buonasera. Dimmi. Una domanda alla persona più seria che è Cruciani, ovviamente. Sì, certo. Ma dimmi. Se si emanasse la Imbecillorum Progressio, che è un'enciclica, sì. Tu pensi che qualcuno penserebbe a Parenzo? No, assolutamente no. No. Assolutamente allora, no. Allora, tranquillo. Perché? Perché è un impasato cazzaro che non ti può sentire. Che ha buonasera, fatto? Buonasera, fatto? Grazie, benvenuto. Come che ha fatto? Che cosa non fa? Dimmene una, benvenuto, dai. Benvenuto, ma. Grazie. Benvenuto nei fatti. Dai, dimmi una, forza. Ma le sue difese di tutto l'impossibile, di tutto quello che accade di negativo e che a lui va bene, non è possibile. Sì. Vabbè, no, però, stavo cioè, pensando a questa enciclica vaticana, la Imbecillorum Progressio. Se lei ha aspettato tanti anni per chiamare questa trasmissione per dire semplicemente aspettare, questo, no, è caro devo convincere delle cose. Da Pescara, mi pare un po' pochino, però, come valutazione la sua, un po' povera, diciamo, un po' io povera elaborato e anche lungo. Stupida. Se l'hai elaborata a lungo, se l'hai elaborata a lungo, può fare di meglio. Può fare di meglio. Può fare di meglio. Può alla fare di meglio, può fare di meglio. Affetto da esoftalmo. Benissimo. Affetto da? Esoftalmo. Che vuol dire? C'ha gli occhi di fuori. Cioè, l'esoftalmo dunque è un invasato. Esatto. Esatto. Ma però gli occhi di fuori è vero, c'ha un po' gli occhi di fuori. Ma non è solo occhi di fuori. Esoftalmo tipico delle persone schizzoidi con disturbi bipolari. Ma lei è un medico? No. No. No, vedi, è un coglione, basta. Di patologie. Sì. di patologie, che cosa? Psicologiche, che cosa? Sì. Psicologiche, psichiatriche. Lui è un prototipo. L'ho visto, ma non è vero, io l'ho visto all'autogrill andando a Firenze, sulla Roma, sulla Roma-Siena, che puliva gli autogrill, ma poi va benissimo, male da pescare. Certo, perché uno non può studiare la ma sicuramente, certo. Pur pulendo, ecco, vedi, naturalmente. Il razzismo verso i lavoratori, ecco, certo, assolutamente. Il razzismo in lui, vedi come dileggia chi pulisce i vetri. No, non dileggia nessuno, attimo, anzi, Mario. Quelli fanno un lavoro nobile a differenza del suo, appunto, che manco lo fa bene. Peschini? Sì? Come stai? Chi parla? Volevo un po' di pasta, Peschini. T'ho riconosciuto. Che te vergogna mettere il tuo numero? No, che mi vergogni? No, questo è quel demente. No, non lo trattare come un demente. Questo è quel demente che produce la pasta a forma di Mussolini, con la faccia di Mussolini. È una grande idea quella di Peschini. Una grande idea. Quanta pasta hai venduto con il fascio con Mussolini, Peschini? Quel tanto che basta. Dai, dimmi quanto l'hai venduto, diglielo un po' a Parenzo. Devi essere orgoglioso di quello che fai, aperto in fuori. Ma giustamente. Ascolta, si vergogna, perché è miserabile. Fino a che abbiamo questi parassiti che stanno sulle spalle della gente che lavora, sì, non voglio parlare, parassiti. Punto e basta. No, dimmi una cosa, chi sono i parassiti? Oh! Chi sono i parassiti? Ma non mi tira fuori le parole, per piacere. No, dimmi chi sono i parassiti. Rimaniamo amici, no? Ma noi siamo amici. Allora, dillo a Parenzo, ho fatto la pasta amici, a forma di fascio. Diglielo. Sì. E con questo? No, ma è e poi questo. E poi la pasta con la forma la pasta con la forma della testa del duce, giusto? Sì. Quanta ne venduta di sta pasta? Abbastanza, dai. Oh, Peschini il fascista, una nuova iniziativa, imprenditoriale di Peschini. Un'idiozia. Sì, adesso se chiamiamo questa iniziativa imprenditoriale, certo, guarda, assolutamente mio, anche questa. Se è questa l'imprenditoria che difendi, cioè un poveraccio che si mette, non dire poveraccio, un poveraccio, scusa, alla frutta, ma, che per reinventarsi, ascolta, si mette a vendere della pasta con la faccia di Mussolini. Venda la carta igienica con la faccia di Mussolini. Un vaffanculo. Ma non l'hai preso mai da un vero italiano? Comunque il fascismo sei è un reato, come, e non è sei un'opinione. Parassita, il fascismo è un reato. Ma vaffanculo, allora, lei. Il fascismo è un reato e non un'opinione, ovviamente, come giustamente mi viene anche ricordato. Ma che ha fatto Peschini? Non ha fatto niente, produce Peschini, delle, ha prodotto la pasta, è un fascista. È un poveretto. Io è non un ho poveretto. Un poveretto sei tu. È un poveretto. Lei è un poveretto. Ma qual è l'emozione? Chiedo l'emozione a nessuno. Lei è un poveretto. Tu sei un accattone. Che per fare. E che mica è un'offesa, accattone. E mica è un'offesa. Devi vergognare. Si sta sul territorio italiano. Vabbè, è italiano. No, è quello che dicevano i fascisti. Esatto. È il linguaggio dei fascisti, quello dei parassiti. Ascolta, tu sei un parassita. Che sei una persona intelligente. Posso dirle, Peschini? Lei è un coglione, Peschini senza appello, Peschini senza nessuna possibilità di appello né di essere smentito. Peschini, ascolta bene e registra. Peschini, lei è un coglione. Ma perché la devi insultare così? No, ma non è l'ho insultare. Chiamato per farci spiegare questa cosa della pasta. Non c'è nulla da spiegare. Ha fatto la pasta con la faccia di Mussolini. Faccia la carta igienica, vedrà che ne venderà molta di più. Vedrà che ma ne quella, venderà molta di più. Quella, no, io la farei che la tu faccia, così mi ci pulisco il culo. Quella tu faccia, sì, bravo, carrettino. Peschi, aspetta, no, aspetta. Fermo. Ma dove va? Cosa ha da fare? Peschini, perché ti diverte così tanto sto imbecille qua? Diverte perché, ma perché è una persona per Peschini? Bene, è una persona per bene, sì. Un signore è che un per fascista, due lire va bene, d'accordo, ma chi? Ecco, e chi se ne frega, reato, dai. Non è come dire vado in montagna o vado a raccogliere le fragole. È un reato dichiararsi ma fascisti, non capite vero, o no? Dai, ma non dire stronzate, dovrebbero tutto. Fare retate ogni giorno, allora, ma dai. Dovrebbero, certo, solo che poi lo reputano incapace di intendere di volere, perché si capisce ma che è un no, poveretto. Dai. No, cos'è, una persona intelligente ma adesso? Ma non lo so, intelligente, ma chi è che è intelligente? È Guglielmo Marconi questo qui, ma chi è? È Marconi o è Peschini, un coglione che produce della pasta con la faccia di Mussolini? Lo devo salutare, gli devo chiedere ma perdono. È Guglielmo Marconi? Gli devo chiedere perdono per la tua insolenza, per la tua insolenza come al solito. Ma chi è? Per la tua insolenza, come al solito. Ma è Marconi, chi è? È un fascista, e allora? No, e allora stia zitto e stia nella caverna. Adesso non risponderà per colpa tua. Mi hai fatto litigare con Beschini. Mi hai fatto litigare con Beschini. Allora, Beschi. Dai, sta tirando l'acqua. Sta no, tornando io a casa. Non voglio litigare con sta te. Sta tornando a casa. Lo devi lasciare perdere. Lo devi lasciare perdere. Spiegami questa cosa della pasta a forma di fascio, Littorio. Lo faccio sta zitto, Veschi, lo faccio sta zitto. Spiegami la pasta a forma di fascio, Littorio. Lascia perdere. Lascia perdere. Diciamo cosa sta. Io il giorno non vado in giro a prendere per il culo la gente. Il giorno vado in giro a cercare di guadagnarmi qualcosa per mettere sotto i piedi. Vabbè, ma quello che c'è intelligente. Lui invece va in giro a rompere i coglioni. Ma perché, diciamo, invece di stare a rompere i coglioni in giro, se impara un mestiere e va a lavorare. Ma questo lavora, ma sta lavorando, sta facendo giornalista. No, lui senz'altro manda la sua signora. A che fa? No, beh, questo non è bello. Questo non è bello. Ma diglielo in faccia allora. Diglielo in faccia. Simone Di Stefano di Casa Pound mi scrive: Guglielmo Marconi era fascista. Aveva fatto l'esempio sbagliato. Allora, Beschi, io voglio dire una cosa. Io sono orgoglioso. Diglielo a Parenzo: sono orgoglioso di essere fascista. Ma mandategli l'ambulanza, dai. Io sono orgoglioso di essere italiano. Vabbè, questo chiunque. Quello che c'entra. Pure Parenzo è italiano. Pure Parenzo. Lascia perdere, se era l'italiano non stava lì a fare il parassita, lascia perdere. Ma che c'entra parassita? Parassita di che lo cosa? Devi dire, io sono orgoglioso di essere fascista. Io sono orgoglioso di essere italiano. Ma no, ma tu sei anche fascista, adesso non ti tirare indietro. Che te la fai sotto? Che te la fai coniglio, sotto? Il classico dei fascisti, un coniglio, il coniglio classico fascista. Diglielo, diglielo. Coniglio fascista, coniglio. È un coniglio. Perché non lo dici? Sono orgoglioso di essere fascista. Non lo dice perché sa che è un reato. Perché qualche volta mi porti sto parassita e fammelo poi portalo, diciamo, perché sa che è un reato. Siccome sa che è un reato, allora lui fa la pasta con la faccia di quel coglione e così per vendere e farci due lire. Quindi peraltro è anche un fascista meschino, peraltro, perché fa i soldi con l'effigie di Mussolini. Quindi è veramente un poveretto, guarda, un poveretto. Si trovi un lavoro onesto. No, la si trovi un lavoro onesto, si trovi un lavoro onesto, si trovi un lavoro onesto, si trovi. Ma Beschini, Beschini, dillo, sono orgoglioso di essere un fascista, dillo, sono extracomunitario. No, a proposito di extracomunitario, che dici? Che dici? Ha chiuso, non c'è niente da fare, c'è da fare. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. A Firenze, Stefano, vai, Stefano. Sì, ciao Giuseppe, io volevo intervenire. Sì, però ragazzi, quando chiamate qui, adesso io veramente mi incazzo e devo risolvere questa situazione. Dovete chiamare che si senta bene. Un minimo, dico. Poi uno dice: Sgarbi, sei un coglione, lo fai parlare. Ma se Sgarbi mi chiama così, dopo due volte che gli ho detto in privato, non è che posso insistere. Se quello si sente così. Ho capito, ma che dobbiamo fare, Stefano? Non ti sento, dai, dimmi ancora, prova, dai. No, volevo dire, da una scatola e quel dito può. Niente, non si sente il cazzo. Dai, Sara dalla io non sento almeno. Sara, no, chi c'è? Chi c'è? Nina? Nina Moric! Eccoci qui! Eccomi finalmente! Come stai, cara Nina? Come signora Moric. Come sono Vabbè, contento dai. Di averti qua. Guarda, sono veramente. Siamo riusciti, dai. Sono veramente contento di averti qua. È un sacco di tempo che penso di. Che, ma signora Moric. Signora Nina Moric, benissimo. Che ha fatto l'attrice, un sacco di cose. Sì. Da un po' di tempo si dedica. Attrice. Beh, insomma, showgirl, come si può dire? La modella, modella. La modella. Super modella, sì. Top model, e adesso da un po' Vabbè. Di tempo sta con il tuo amico Di Stefano, quello che ti manda i messaggi no, adesso. Mio amico, ci conosciamo. Tuo amico, dillo, tuo amico. Non frequento i fascisti. Quindi. Ma no, ma che... quali fascisti? Ma come si usa questo termine in Italia? La signora Moric, ci mancava anche la signora Moric in politica. Allora, signora Moric, allora io voglio chiedere subito una cosa. Ma quanti siamo in studio? Siamo no? Io, sono siamo Cruciani, una, Parenzo. È una gangbang radiofonica, signora, siamo in tre. Siamo in tre. Posso sapere nomi? C'è lei, Cruciani, signora Moric, signor Moric, e poi Cruciani, il signor Parenzo. Signor Parenzo, che di professione fa il giornalista ed è antifascista. Eccoci qua. Ma quello che c'entra, no, mamma c'entra, mia, devi sempre... antifascista. Sì, che devi fare? Di nuovo questa parola un po'. Signora Mauri, c'è bastato da Fabrizio Corona a casa Pound. Pensa a te. Vabbè, se ne facesse una giusta. Andiamo avanti, dai. Ma fa sempre queste battute. Ma come c'entra? Ma il fascismo è morto 40 anni fa. Fa sempre 70 anni fa. Ah, il Duce, dici. Il Duce, sì. Duce. Poi, onestamente, oggi come oggi, ma di cosa stiamo parlando? Ma ci vorrebbe un uomo forte. C'è destra, c'è una destra, sinistra, che non sono nemmeno così diverse. Non è proprio come lei pensa. Sono molto simili nei concetti, però la gente purtroppo... Sì, il fascismo, il fascismo spiegato da Nina Moris. Andiamo avanti. Scusami, Nina, ma ci vorrebbe. Ma no, va benissimo, daremo in allegato. Annunciamolo. Dai, domenica col Sole 24 Ore daremo in allegato un nuovo CD che è il fascismo spiegato da Nina Moris. Ma non è il fascismo, ti sta dicendo che non gliene frega niente di Mussolini di parlare di queste robe qui. Non gliene frega nulla. Andiamo avanti. Allora, voglio capire una cosa. Secondo lei, però, a proposito di Mussolini e di queste cose, ma ci vorrebbe un uomo forte in Italia? Cioè, lasciamo perdere il fascismo, ma in questo momento in Italia, con quelle crisi che abbiamo, ci vorrebbe un uomo forte. Ma sta chiedendo a me? Sì, certo. Assolutamente sì, ci sono una grande svolta in questo paese, ma proprio... L'uomo forte ci vuole, uno che comanda. Uno che comanda, che sa comandare e guidare un paese. Questa occasione che è stata, purtroppo hanno perso in Francia con la Marine Le Pen. Ma come lo vede questo Macron, lei, come l'uomo delle banche? Ma io non lo vedo proprio. Ah, non lo vede proprio. Non voglio assolutamente entrare... discorso Macron però sta con una molto più grande di lui, questo qua è... questo non è affatto mio, cioè, non è importante, non questo non è importante, per me no, assolutamente. Per qualcuno invece è tratto di una piccola, che ne so, di un disturbo, qualcuno ha detto che è disturbato, potrebbe essere, per visto la non soltanto la, diciamo, differenza d'età molto grande, però è visto che loro hanno avuto una storia da quando lui era un ragazzino, un quindicenne, perciò è un po' più delicata come una cosa, però per il resto, guarda, non è questo. Comunque in Italia sicuramente ci vuole un uomo forte in questo, uomo, donna, insomma, quello che è. Un uomo, donna, quello che sia, una persona con una testa che deve fare una cosa veramente... Un uomo forte, bella questa cosa, un uomo, cioè un cambiamento, uno con un carisma, con un carisma, no? Che abbia con un carisma sicuramente. Ma la democrazia funziona secondo lei oppure c'è perché bisogno? Perché l'Italia purtroppo in questo momento non è più innamorata. Non è più? Gli italiani non sono più innamorati di Italia, perciò di nuovo gli italiani si devono innamorare di questo meraviglioso. E di chi siamo innamorati in questo momento noi? Degli immigrati? Di chi siamo innamorati? Ma sì, da Boldrini, ecco, Boldrini, lei è innamorata di immigrati, vuole di tutti gli immigrati. Perché lei non è un immigrato, la signora Moris. Da dove viene Moris? Ma scusi, voglio dire, ma lei è... posso parlare? Falla parlare un attimo. Visto che in questo momento la disoccupazione è al 12%, quella giovanile al 40%. Sì. Ci sono gli italiani che vivono con bambini in macchina. Sì. Purtroppo oggi non possiamo cogliere. E dunque la Boldrini li prende... dopo aver risolto tutti questi problemi. E dunque la Boldrini... Possiamo anche farlo. Boldrini, se ha problemi, se vuole tutti questi immigrati qui, ma chi se li prende a casa sua, che li accoglie lei? Ciao Boldrini. E va bene, cioè, così. La signora Moris è nata a Zagabria, no, che non mi pare essere Italia. So, cioè, anche lei è stata una clandestina, ma sicuramente una non italiana. Io sono arrivata in Italia con una carriera. Sì? Sono arrivata in Europa. Non è arrivata, non è arrivata nei barconi, giusto? Ma che c'entra? Vabbè. Sono arrivata in Italia Zagabria con una carriera ampia. Sono andata in Euro, appena sono scesa ho comprato anche la casa in Italia, mi sono innamorata di un italiano, ho fatto figli, ho fatto una scelta coraggiosa, sì, perché avevo una carriera in America, per l'amore ho scelto questo paese, perché è un paese meraviglioso. Aspetta, Nina, che stai parlando con l'auricolare? Ma lei è fortunata perché è una modella. Lei è una signora simpatica, fortunata. Siccome la signora Moris è un immigrato in Italia. Aspetta. No, ti facciamo finire. Aspetta un attimo, che sennò dobbiamo sentire. Mi sono innamorata di un uomo italiano. Ho fatto un figlio meraviglioso. Ho cresciuto questo figlio meraviglioso. Sì. E mi sono innamorata di questo meraviglioso paese che oggi per me è il mio paese, per me oggi è... Cioè tu non hai la stessa io non ho tolto lavoro a nessuno, non sono arrivata, non sono arrivata Nina, aspetta, però ti sento male, cerchiamo di... Ho detto che non ho tolto lavoro a nessuno, anzi ho dato anche lavoro. Sì. Ho dato perché c'è anche due ristoranti. Tu hai dato, cioè non sei arrivata come quelli che arrivano oggi sui barconi, dici tu. Ma io, guarda, guarda, io veramente non vorrei essere xenofoba o razzista, però... assolutamente, ma in questo, come ho detto prima, in questo momento non abbiamo possibilità di accogliere. Cioè, dobbiamo, come li fermiamo, secondo te? Come li fermiamo? Non li portiamo più! Ma come li fermiamo? Come li fermiamo? Li dobbiamo fermare, dobbiamo fermarci noi e non portarli più qui. Ma come li dobbiamo fermare? Anche con la forza? Secondo te, vengono loro, vengono a volte. Succede che proprio... Adesso non voglio fare i nomi perché non voglio entrare nelle cose che sono abbastanza delicate. Andiamo proprio noi a prenderli. Sì, noi, ma quella è la vecchia storia. Adesso la storia della... Questo non possiamo, in questo momento non possiamo farlo. Come fermiamo? Fermiamo a un certo punto che... Adesso pensiamo agli italiani, quando le cose si risolvono, ben venga, io sarò la prima di dare benvenuto. Senta, ma secondo lei la Serracchiani... Si candida con Casa Pound o no la signora Morice alla fine? Non lo so, si candiderà, ce lo no? dica. Si candida, sì. Sì, bene. Assolutamente sì. Allora farà candida. La capolista in qualche posto, giusto? La capolista, sì. Capolista di Casa Pound. Perché no? Perché non si può candidare la signora Morice? Scusa, ma sì, ma per carità. Ma potete candidare anche l'uomo elefante, per me, qualunque cosa potete fare, non è un problema. Candidate anche il Cirque du Soleil. Aspetta. Mi ascolti, io non ho le capacità di fare ministro. Non voglio fare. Perché no? No, perché non ho le capacità. Scusa, ma chi voi... portavoce, perché portavoce non posso farlo? Sì, portavoce, certo, di fare ma portavoce, per carità, ma certo. Anche il presidente della Camera. Esprimere una mia opinione. Anche il presidente della Camera. Ma certo. Ma non voglio essere presidente della Camera. Non, come ho detto, ma non guardi non che lei sarebbe in grado, le posso assicurare, sarebbe in grado, non si preoccupi. Non si preoccupi. Aspetta un attimo che c'è la pubblicità, poi torno, ferma là. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Allora, caro Parenzo, abbiamo in collegamento la grandissima passionaria nera. Ne combina veramente di tutti i colori su Facebook. Devo dire anche con delle grandi freddure che la gente non capisce, caro Parenzo. No. Cioè le persone non capiscono fino in fondo anche l'ironia di certe cose. Si è trasformata nell'ultimo anno da modella, da quello che ha sempre fatto, a personaggio trendy nel campo della comunicazione. Non c'è niente da fare, così ti può non piacere, può starti sulle palle, può starti antipatica, ma è la realtà. L'altra volta, quando c'era la partita della Juventus col Monaco, ha scritto una cosa straordinaria mentre c'era un certo, c'era un difensore polacco che è stato nel Torino, che si chiama Glick, che stava col piede sopra Higuain, e lei ha detto: che pezzo di merda, pezzo di M, puntini puntini, e poi gli ha detto l'invasione della Polonia, cos'è che hai scritto? Sì. E poi ci stupiamo, scritto, che hai scritto? L'invasione della Polonia. No, che hai scritto sull'invasione della Polonia? No, non niente, niente. Sì, che è meglio invadere, poi dicono che non bisogna... No, era una battuta, onestamente. Era stata una battuta innocua, perché purtroppo... Ma le scrive lei direttamente o c'è un ghostwriter? Io prendo tutte le mie responsabilità. Ah, okay. Allora, innanzitutto è giocato sporco. Cioè, quello che ha fatto Paolo Higuain non si poteva vedere. Allora mi è venuto spontaneo, però era una battuta, non ho offeso, cioè offeso per modo di dire, modo calcistico. Ma sì, faremo l'invasione della Polonia, che però ricorda il nazismo, l'invasione della Polonia. È ancora con queste volte. No, ma ricorda, ho detto ricorda. Ricorda molte cose. Anche la Croazia è stata invasa. Anche l'Italia. Senti, ma se la Juventus vince la Coppa dei Campioni, che fai? Ma chi ha detto che sono juventina? Non sei juventina, no? Beh, io non mi sono espressa. Perché squadra tifi? Simpatizzo Juve, però sono interista. Sei interista e simpatizzi Juve, non è che va non è che lo so, sono due cose che non collegano molto insieme. Però infatti. Io le trovo... Però, visto che mio figlio ama Inter, allora per amore di mio figlio, tipo Inter. No, ma tu sei interista, di tuo sei interista. Sì, sono interista, sì. Però simpatizzi per la Juventus. Bene. Perché c'è un croato, forse è per quello. È un paradosso, però ci sta pure. Ma nella tua personalità ci sta tutto. Come il fatto di aver scritto l'altro giorno i bambini, che i bambini non possono essere felici con una coppia gay, questo hai scritto in sostanza. Ecco. penso che, allora, in primis, io non è che ho detto che non possono essere felici. Ho no, scritto, dici, cosa per me, allora, da ora che passiamo ai gay, si pensa sempre solo ai capricci dei adulti, ma il diritto del bambino ad avere una mamma morbida e profumata. Non un ex parentale flaccido con la pensione d'oro. Giustamente, un bambino oggi, come oggi, no, nostro paese non è ancora pronto. Cioè, tu sei contro l'adozione? Sei contro l'adozione gay? Allora, io sì, io sono contro. Tu invece, io mi sono esposta. No, io sono a favore. Io sono a favore. Tu sei a favore. Sì, sono a favore del matrimonio e sono a favore dell'adozione. Io sono assolutamente a favore dell'unione civile, matrimonio e tutto il resto. Però adozione, in questo momento non siamo pronti. Ma secondo te, i bambini vanno presi di mira poi in questo momento, perché guarda che c'è tanta ignoranza in questo paese. Ma un bambino può crescere bene tra due genitori omosessuali o no? Assolutamente sì, ma questo non metto in dubbio, assolutamente sì, può crescere benissimo. Ma perché ti stanno massacrando su internet, cioè... Ma quelli che, perché sono ignoranti, poi si va a vedere chi sono, proprio quelli che non vorrebbero mai avere dei figli. Ma cioè... chi è lei per decidere come cresce bene un bambino? Ma io non, adesso, io non sono nessuno per decidere, io non sto decidendo per infatti nessuno. Ha detto che possono... Sì, ho capito, ma lei ha già detto, a prescindere, che due omosessuali non possono... No, non ha detto questo. Esposta, ho espresso un pensiero, una mia opinione, considerata come una idiozia totale o considerata come una cosa saggia, non mi interessa, mi sono esposto, ho detto quello che penso, da qui a pensare di passare a omofoba, a non so, insultandomi così pesantemente, ma anche sul mio privato, ma non esiste proprio. No, ma ha ragione lei, devo dirti. Io non ho insultato nessuno, posso fare anche nomi e cognomi delle persone che sono proprio delle persone, diciamo, omosessuali, che condividono il mio stesso pensiero. Cioè, lei ha detto, Stefano Gabbana, ecco, lei ha detto, e lui è primo che è stato primo in Italia che ha espresso lo stesso mio pensiero. Allora lei ha detto cosa? Ieri era la festa della mamma. Ha detto che la festa della mamma, ha detto cosa hanno da festeggiare, diciamo, i bambini, cosa festeggiano i bambini con due che hanno due uomini come, diciamo, come genitori. Da qui si è scatenato un mezzo putiferio, perché va bene, ci sta bene che si scatena. Va bene così. No, va bene, per esempio, io non ho preso nessuno, perché in primis ho tantissimo, anzi da 2011 non vedo più un etero oltre il mio fidanzato, tutti i miei amici con cui io che fare sono omosessuali, perciò come non vedi più un etero? Non ho capito, cioè. Detto così, perché sembra sono omosessuali, ho le donne, non sei circondata da gay, sono circondata e li amo tantissimo. Però è contraria, all'adozione, che devi fare? Sono contraria, però anche Stefano Gabbana, essendo una persona omosessuale, è contraria all'adozione. L'utero in affitto ti fa schifo? Quando lo fanno due? Quello proprio sono contraria a prescindere. Cioè, quello che ha fatto Rendola? Anche gli etero, perciò l'utero in affitto proprio, quello che ha fatto Rendola ti piace, il signor Rendola, no? Che è andato a fare. Guarda, non so, mi sa che si è trasferito in Canada, se non sbaglio. Come? E poi in Canada l'ha fatto, sì. In Canada, con il suo compagno. Sì, col suo e compagno. Poi è amico del coso in studio, comunista come lui, perciò di Parenzo, sì, è amico di Parenzo. No, però i comunisti vanno bene. Ma i comunisti, lei che viene, diciamo, dal paese di Ante Pavelic, diciamo, niente male, quindi meglio comunisti che Ante Pavelic. Dai. I comunisti ti fanno schifo? Ma a me nessuno mi fa schifo, onestamente. No, ma i comunisti. Gli altri si espongono sempre. Ma esistono ancora? Esistono ancora i comunisti a pieno? Beh, a Livorno sicuramente sì, anzi, fanno anche ancora la parade comunista proprio. E invece il Gay Pride ti piace come manifestazione? Assolutamente sì, perché no? Ci andresti a un Gay Pride? Sono già andata. Sei già andata. Gli amici di Casa Pound non sono molto contenti se, no, tu, se tu partecipi a un Gay Pride. C'entra? Io ero a New York, c'era Gay Pride, ero lì, mi stavano simpatici, ero con due miei amici, qual è il problema? Non vedo nessun problema. Senti, amici di Casa Pound non sono così contenti. Ma di cosa stai parlando? Ma beh, insomma, i Gay Pride non lo amano. Ma che cosa stai lo vieterebbero dicendo? Forse. Casa Pound, no. Però anzi. È pieno di omosessuali, che sapete, è una notizia questa. Contro adozioni anche loro, però questo non discriminiamo nessuno. Ma ci sono omosessuali? Dentro Casa Pound ci sono omosessuali, secondo te? Ma scusami, non lo so, tu lo sai? Ma che ne so, boh, ti faccio una domanda. È sessuale, importa? È così no, non importa, importante. Non importa, ti faccio una domanda, magari lo conosci meglio non te. Non lo so, per me non è importante, per me questa è una cosa esattamente, non so, non sollieva nessun... E invece niente. La Boschi, che ne pensi della Boschi? La Boschi cosa ne pensi? Che ne pensi? Ogni giorno esce una nuova. Ma ti... avete letto il titolo di... Libero. Sì, bello, bello, stupendo. Libero, guarda, ogni tanto mi sorprende come sia, non so, chi scrive. Ma perché? È brutto secondo te? Assolutamente terribile, assolutamente no, terribile. È stupendo, meno male, è stupendo, meno male, brava, meno è stupendo. Male, meno male, brava. È terribile, stupendo. Ma proprio... Sì, orrendo il titolo di libro. Io trovo una cosa geniale. Cioè, la trovo Ah, vedi, siamo contrastati proprio. No, ma la trovo geniale perché, brava, perché, amore, perché mi ha stupito. Ma brava, brava. Proprio, guarda, ci tieni pure a dirlo, dai. No, ma il punto è molto semplice. Là si riferiva, chiaramente c'era un doppio senso. Era un gioco senso. Di parole. Un gioco di parole. Ma stiamo brutto. Parlando di un quotidiano serio, ragazzi. Gioco di serio? Parole. Cioè, è un quotidiano. Allora scrivete per Novella 2000. Vabbè, ma capito, su questo ha ragione, vedi, la signora Morici su questo ha ragione. Il suo nome che però onestamente, ma non stiamo scrivendo su top star, stiamo scrivendo su un giornale. Sì, ma ho capito, brava, ma brava, che, brava, ma è un giornale spesso che fa dei titoli come i giornali inglesi, che ne so, il Sun, questi giornali qui, sì. Non è che sia un giornale per forza che fa i titoli come il Corriere della Sera. Si gioca sul fatto che loro sempre non sono un giornale di istruzione, cioè quello che quando lo leggi non è che lo leggono cioè non si trova dai parrucchieri. Senti, lo sai che cosa che non capisco io? Perché Casa Pound e non Salvini? Cioè, che cosa che non ti piace di Salvini, per esempio? Possiamo cambiare argomento, perché Casa Pound è Casa Pound. No, ma perché Salvini c'è no? Le conviene Salvini, le converrebbe. Ti converrebbe insomma, Salvini. Se vuole essere eletta, se forse. Se vuoi andare in Parlamento, no? Senza nulla togliere ai signori di Casa Pound. Ma perché Salvini? Perché no? No, perché c'ha più voce. Cos'è che non ti piace di Salvini? No, ho fatto una scelta, io cosa non mi piace, cosa non mi piace, non mi interessa, io non espongo le mie opinioni personali su determinati personaggi, però onestamente... Hai fatto una scelta e basta. Ho fatto una mia scelta personale che ritengo giusta. Senti, ma dei Rom, che pensi dei Rom? Hai visto questa storia della Lidl, no? Cioè hanno licenziato... Cosa? Non ho capito. Dei Rom, i Rom. Che faresti tu con sì. I campi Rom? Che faresti? Sì, sì. Ecco, che cosa? I campi Rom. Che faresti con i campi Rom? Cosa farei con i campi Rom? I campi Rom. Se vuoi fare politica, come risolvi il problema dei campi Rom? Cercherei di limitare questo problema. Se anche loro possono vivere in condizioni migliori, non lo so. Oh, meno male, vedi. Ma i Rom che come diciamo gruppo etnico, chiamiamolo così, anche se è una cosa così. No, che... non riguarda, veramente non mi espongo perché assolutamente non ho nulla contro i Rom. Anzi, bene, la notizia è questa per Casa Pound, ottimo, non ho nulla contro i Rom, benissimo. Stiamo danneggiando ma un movimento. Ma lei blattera così a Vavera o blattera cosa, signora mia, dicendo, signora mia, io non lo so adesso, cosa. Io vorrei tanto sapere veramente la sua età e tutto, però mi sembra io ho 41 veramente... anni, io faccio il giornalista, sono Parenzo, ammiro la sua, come dire, la sua intelligenza, la sua furbizia, la sua indubbia bellezza, e questo va tutto bene. Dopodiché non la penso come lei, ma su me che lei... cosa, su che cosa, ma su niente, ma dice delle cose comunque su casa bene. Però, per concludere, sui Rom, Nina Morici, due punti. Abbiamo capito che a Nina Morici piacciono i Rom. No, ottimo. Piacciono i Rom. Allora, com'è? No. Mi piace, com'è? Ma non mi piace quelli che rubano. Ecco. Ma è ovvio. Ma a chi è che piacciono quelli che rubano? Ma scusi, dai. Per questo non mi interessa. Ma sono molti quelli che rubano tra i Rom, secondo lei? Signora Morici. Tantissimi. Ma ci sono anche italiani che rubano. In questo momento i Rom sì, ci sono anche i servizi. Senti, in due parole, per concludere. Perciò non è che sto dicendo una cosa. No, assolutamente. Che ho pensato io. Sto dicendo una cosa. Che un dato di fatto, senti ecco. Una cosa, ma spiegami una cosa proprio per concludere: quanto te ne frega della vicenda che di cui non abbiamo mai parlato nemmeno per un minuto tra Fedez e la Ferragni? A me non me ne frega nulla, non me ne frega un cazzo. Che bel cambio di discorso! Sì, a me zero, non me ne frega nulla. Ma io li trovo carini insieme, poi non è che se li seguo, cioè ho capito che però cioè, adesso una volta guarda, magari non è. Però adesso li trovo belli, spensierati, vivono la sua vita, non pensano a nessuno, non se la prendono, li prendono in giro, loro ci ridono sopra, e così deve essere. Io non sopporto i piedi, per esempio, i piedi della Ferrari. Ho visto una volta i piedi. Ma che ti fai? Ma sei pure feticista, Madonna. Io ci sono molto feticista. No? Ho visto i piedi, è una cosa. Come si fa a stare con una. Feticista, no, sessista, sessista, no, sicuro. Ma sei pure i difetti. Io sono. No, beh, ma ti posso assicurare. Però posso dire, signora, lei non è stata col duca di Wellington fino a poco tempo fa. Glielo vorrei ricordare che lei non è stata esattamente con un erede di Buckingham Palace. Quindi fare troppo con noi adesso, la schizzinosa. È stata con un signore che per carità, no, ho capito, fucking impossible, con un essere voglio umano normale, ma certo, però fa tutta la schizzinosa, in ballo, ma no cosa. Ma voglio dire, ci fa tutta la schizzinosa, come se fino all'altro giorno fosse stata fidanzata col duca di Wellington, è stata fidanzata col signor Corona, cioè magari con duca di dai Wellington. E adesso e dice, però scusi, e dice a Cruciani che sicuramente magari, non è che ma voglio, signora mia, magari c'è stata, vabbè, ma figurati, voglio dire questo, siccome io sicuramente di Cruciani mi devo prendere sul serio, no, ma signora mia, mi ascolti, io sicuramente Cruciani, ma fa bene, io e Cruciani siamo sicuramente il giorno e la notte. Dopodiché il fatto che lei adesso faccia la schizzinosa, perché Cruciani, tra le porcherie che dice in questa trasmissione, ha semplicemente detto che apprezza i piedi, e lei fa la scandalizzata, signora Monica, che faccio la scandalizzata, ma voi conoscete Ma era sì, ironica, ma signora mia, era ironica, dai. Era ironica. Io non sopporto i piedi brutti. Che devo fare? Sono feticista dei piedi. Bocciamo i piedi della Ferrari. Beh, è una cosa terribile. Ho visto i piedi così tanto belli, perciò bocciamo anche i miei. Beh, non lo so, non li ho visti. Per cui i piedi della signora Ferragni sono terribili, terribili. Sono una cosa. Solo vedere quei piedi mi farebbe ammosciare tutto. Quelli di Pistorius ti piacciono? Quelli di Pistorius ti piacciono? Non l'ho visti quelli di Pistorius, non vedo ma tutti. Ha fatto una battuta di politicamente scorretta. A parte che a Pistorius ha fatto una battuta politicamente scorretta la signora Moric. Tutto qua che stiamo dicendo. Brava. Ciao Nina, a presto. Ci saluti il duca di Wellington. Ciao, ciao Nina. Lo saluto. Ciao, dopo questa chiamata. Sì. Come chiama il duca? Duca di Wellington. Parenzo, Parenzo. Parenzo, Parenzo. Parenzo, Parenzo. Io sono Parenzo. Parenzo, ok, va bene, ok. Ciao, bene, bravo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, cara, arrivederci. Ok, arrivederci, ciao. Saluti, signora. Torno nella mia stanza d'hotel a Helsinki dopo una giornata di lavoro. Mi metto sul letto tranquillo, apro l'app di Radio 24 per ascoltarti e c'è il cazzo di traffico, mortacci vostri. Voi siete la parte negativa dell'Italia, perché approfittate di una radio per poter fare delle pagliacciate, quando poi la realtà, ci sono pari di famiglia che hanno perso il lavoro, non hanno soldi, hanno perso tutto, e voi ve ne fate una risata, bestemmiate, dite le parolacce, offendete le persone. Questa è la parte negativa dell'Italia, che voi state rappresentando al meglio. Credo che questa trasmissione dovreste fare gli attori comici, in modo che almeno i vostri guadagni sono ben ripagati. Vittorione Sgarbi caga e viene ripreso dalla televisione, caro Parenzo, non so se hai visto. Sì, mentre chiama Buffon, legge un libro, peraltro stava leggendo un libro, a parte, Renzi, fatto, pare, a parte no? il fatto che è diventato grassissimo. Vabbè, è diventato però è ingrassato parecchio, cioè tutto flaccido. Beh, con questi capelli bianchi flaccido, devo dire la verità, una scena veramente oscena, un'immagine veramente oscena quella di Sgarbone, mentre chiama Buffon. So, forse gli fa gli auguri. Non lo so, vedete al telefono, sembra con Buffon. Senti. Ah, proprio. Potevi avvisarmi, Vittorio, che stavi per cagare. Vecchio Buffon. E l'immensa sensibilità di Buffon emoziona il buon Vittorio. Sto lavorando? Sì, esattamente. Io sto cagando successo, no? Come faccio spesso. E c'è un rompicoglioni delle Iene. Ciao Gigi. Ti sta salutando. anche mentre cambio lui non mi abbandona. E allora... Poi quello se ne va perché c'è puzza di merda. Gigi, scusami, è tutto molto interessante, ma qui c'è una puzza di merda incredibile. Se possiamo chiudere la... Ma chiaramente la sua attrazione è per la figa. Ci sono anche Cruciani e Filippo Daverio, ma proprio mentre chiacchiera col collega critico d'arte Vittorio è distratto da qualcos'altro. Interessante questa ragazza. L'assistente di questo signore. È il mio capo. Una bella ragazza. Grazie. Le sta portando via l'assistente personale però, eh? No, ma no. Esatto. La notte si può fare qualunque cosa, sì. Poi parla di prostata. Come va la prostata, Vittorio? La prostata benissimo. Insomma, lì va tutto bene e anche la vista è buona. Infatti, adocchia sulla parete un quadro. Vittorio, gli stai rubando un quadro? E se lo fotte? Ma non è ancora contento. Ma il vino l'abbiamo preso? È certo. È sempre meglio due o tre bottiglie. Vittorio, hai già preso il quadro, hai già preso... Beh, però è bene partire con... Tu fai la spesa quando vai dagli amici, non è che... Beh, va bene. Come fai a starci? Poi a un certo punto lancia Vittoria Risi a Gavronsky per avere in cambio quella che si accompagnava a Yas Gavronsky. Prende Vittoria Risi, la prima pornostar italiana, e la lancia come diversivo verso Gavronsky. Prima quando vede il pelo Gavronsky riprende. Poi, mentre questo è distratto, alle sue spalle si fionda sull'accompagnatrice. Sei la figlia? No, sono una delle fidanzate. Ah, una delle? Beh, delle, certo, però tu sei una ragazza. Però ottima scelta. Arrapato come non mai quando vede della figa nuova, sostiene che è meglio che di dominare meglio la figa dell'arte. Da questi primi minuti insieme si evince che c'è un altro tema che domini meglio dell'arte. La figa? Beh, la figa va bene. Anche Gavronsky, quello è artigianato. Visto quanta figa che c'è? Se la danno via con soldi. Poi racconta che mentre trombava una dettava un articolo sul Pisanello. Vado a Budoni a presentare un libro e a un certo punto seduco una quasi cinquantenne e dico adesso me la scopo, no? Sono arrivato qua. Poi mi viene in mente che è un sabato, che devo fare l'articolo domenicale, lo devo consegnare entro le 9:30, quindi sono le 8:30, almeno un'ora per scriverlo ci vuole. Allora io la guardo, lei mi guarda, come dire, l'impeto erotico, non è che potevo farla aspettare un'ora. Ho preso il telefonino, sono salito su di lei e mentre la trombavo dettavo un articolo su Pisanello. Perché... E questa qui era lì esterefatta, vedere uno che parlava dettando l'articolo, stava scopando lei e alla fine chiudo l'articolo, l'articolo arriva il giorno dopo, si è aperto il giornale, cioè il figlio era nato. Andiamo coi WhatsApp a questo punto, direi con un tema attinente, lo squirting e il sesso. Vai. O bucaiola, tu mi tradisci, tu dici vieni e invece tu pisci, altro che squirting e le piscio. Previsioni meteo radio squirting, piogge in arrivo, ripeto, piogge in arrivo. E grazie lui, dotto, amano l'ascolto la zanzara. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Hai squirtato? Sì. Di grazie, Cruciani. Diglielo, diglielo. No, mamma, no. No, diglielo, diglielo a Cruciani che ti ha fatto squirtare. Sì, ma non pensavo a lui. No, ho capito, non pensavo a lui, però ce l'abbiamo fatta, Crux. Abbiamo vinto anche stavolta. Senti me lo sciocco sulle chiappe. Ce l'abbiamo fatta. Grande, Crux! No! Non c'è niente da fare, questa comunità si allarga e ci trasmettono anche momenti di gioia intima, caro Parenzo. Hai sentito il tocchetto sulla chiappa? Sì, sì, ho sentito. Aspetta. Ciao Crucians, viaggio di lavoro al sud della Germania, vicino a Nuova Ulm. Non c'ho un cazzo da fare stasera, devo andare a cena e dopo la domanda è una sola. vado all'FKK o non vado all'FKK? Non lo so, dai, dammi una mano. Beh, amico mio, mi hai mandato questo messaggio oggi e ti posso dire, ti posso dare un consiglio: non ti mettere a leggere in camera un romanzo, non metterti a leggere, che ne so, un articolo di Parenzo o una, no, una dissertazione parenziana. Vai dritto, vai dritto. Non ascoltare nemmeno la Zanzara, ascoltala dopo. Vai dritto, diretto all'FKK, che per chi non lo sapesse è sostanzialmente una sauna erotica, cioè una sauna dove ti metti un asciugamanino e in un posto molto civile, prendi il tuo armadietto e poi scegli un posto, sì, Parenzo, dove c'è grande prostituzione, dove tu scegli una specie di mercato, una specie di mercato, sì, con tante donne, dove tu scegli liberamente. No, non è una porcheria. Le donne si conquistano, le donne si portano a cena, è le il donne, paradiso. Alle donne si regalano dei fiori, è dei libri, si portano a teatro. Dunque, al cinema, e dopo si schienano. Caro, però intanto si schienano. Ma no, come parli? Si schienano. Ah, beh, adesso il Lord di Wellington. Il, no, voglio dire, se tu no, perché tu Parenzo non te lo puoi permettere, voglio dire, no, okay, e poi si schiena, no, ho capito, però scusami, io non l'ho mai detto in vita mia, no, cosa? Mai, ma tu dici si delle dice, si scopano al massimo, non si schienano, è molto più volgare, si schienano di mi scopano. Hai tirato, mi hai tirato per le orecchie, entro nel tuo linguaggio, entro nel comunque, tuo, io dico all'ascoltatore, libri, fiori, è meglio che andiamo avanti, è meglio che parlo io. Allora, l'ascoltatore della Germania, amico mio, non fare nulla di tutto ciò, non leggere, non stare a guardare un bel telefilm, una bella serie, eccetera, vai dritto all'FKK, questi posti civilissimi, dove entri e scegli. Scegli come in un supermercato, scegli tra la diversa, sì, la voglio dire, scegli tra la mercanzia che c'è, mercanzia, esatto, mercanzia, certo, belle donne, chi più, chi meno, però sempre mercanzia, perché di quello si tratta, poi la puoi trattare bene, puoi essere violento, paghi, do ut desso, loro guadagnano, sono contenti, vanno a casa felici, quelle dell'est portano un sacco di soldi magari a casa, gente felice, realizzata, gente, sì, certo, magari vorrebbero fare altro, ma intanto si realizza quella cosa straordinaria che è lo scambio, il do ut des, il mercato, Parenzo, ti dovrebbe piacere, no, il mercato. Dunque, caro ascoltatore che sei in Germania, metti anche il conticino all'azienda se è possibile, cerca di fare un trucco con l'azienda, col taxi, col conto là, non stare a pagare tu, mettilo in conto all'azienda, che ti frega, amico mio, facciamo un FKK, mettilo in conto all'azienda. Ma cosa dici? Mettilo in conto all'azienda, FKK, vai diretto senza esitare. Ce l'abbiamo fatta, grande Groot. Come ci godo che all'Eurofestival quel frocio sponsorizzato dall'establishment americane Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley, all'Euro Festival della canzone è arrivato sesto, l'hanno giudicato ubriaco. Fa schifo quella canzone lì, sembra la canzone dei bambini dall'asilo, sto frocetto col cazzetto, è come Parenzo quel coglione lì, sono due coglioni uguali, infatti quando ho vinto Gabbani, cioè, l'hanno fatto vincere, non è che senti. L'hanno fatto Gamba vincere, perché a Sanremo la vittoria non te la guadagni, te la compri, no. Aspetta, okay. E se la compra un establishment, qualche volta anni fa ce li comprava l'autore proprio della canzone, sì, con i soldi, con gli investimenti, sì, certo. Oggi, okay, in quegli ultimi anni, sì, non ce la compra, no, il cantante, sì, o l'autore, e chi le compra? Ce la comprano l'establishment, perché c'è crisi, e quindi hanno comprato il primo posto di Gabbani prima ancora che partecipasse, e l'ha già tutto scritto. Ma invece da Gabbani perso, poi fa parte di quel sistema, senti, di senti, finanziamento e di campagna, Gabbani, sì, verso, sì, i gay, i matrimoni gay, le adozioni gay, sponsorizzata dal 2014 da Goldman Sachs e JP Morgan, che stanno portando a termine il loro programma. Ma con Gabbani, questo è, amici miei, è dal 2014 che Goldman Sachs e JP Morgan ufficialmente sponsorizzò, sì, certo, le, certo, matrimoni gay e quindi la scimmia non da gay e tutto quello a favore dei gay, tutto quanto a favore c'entra? Dei gay, perché loro hanno pianificato tutto un sistema, tutto un sistema, dove ci saranno le razze unificate, non ci saranno più bianchi, neri, già tutto unificato, tutto grigio e fagioli. Non ci sarà più eterosessuali re, no, no, cioè, no, liquidi, no. Li chiamano le persone liquide, quelli che vanno con uomini con una... Ma vaffanculo, ebrei di merda, ma voi dovete crepare tutti, ebrei di merda, tutti maledetto, dovete crepare. Maledetto, maledetto. Ma cosa vuol dire? Ma poi cosa c'entra? Adesso lascio andare nel merito, insieme, questo è perfetto, però, perché è Napalm, il personaggio di Crozza, Napalm, è chiaramente, sì, ispirato a lui. Sì, sì, cioè, sì, sta lì, Gabbana, la scimmia nuda balla, capito? Goldman Sachs, la scimmia nuda balla, occidentale starma. Stupendo. Tarcisio da Bologna, Tarcisio. Allora? Dimmi, bene? Allora cosa? Ascolta, la parte tutta. No, adesso prima si è passati da tanti, diciamo, da tanti discorsi. No, per quanto riguarda il fascismo, no, io mi reputo, diciamo, comunque un fascista. Però oggi, sì, non applicherei un fascismo, ovviamente sarebbe un fascismo più moderno, più. Sì, più Tarcisio, prima di continuare con queste minchiate, metti bene il telefono, per favore, però. Metti bene, ti prego, ti prego. Bene, ma come cacchio devo fare? Sei in viva voce. Viva voce. Sì, no, auricolare, avrai l'auricolare, qualche cosa. No, dai. Sto guidando al telefono. Vabbè, allora dimmi, sì, bravo, guidi al telefono. No, ma non, si può, non ce ne frega un cazzo a noi che non si possa, certo, fare. È giusto così. La gente, c'è la deroga per la zanzara. È stata approvata l'altro giorno dal Consiglio dei Ministri. No. Praticamente, se tu stai al telefono con la zanzara, puoi stare tranquillamente al telefono, non c'è nessun problema. Vai, Tarcisio, allora stai al telefono, hai la deroga. Cioè, tu ti dichiari fascista, praticamente. Io mi dichiaro fascista e non applicherei un fascismo. Il mio fascismo non sarebbe, sì, ovviamente, quello ai tempi. Sì. E quale sarebbe? Un pochino più moderato. Un pochino più moderato. Fai un esempio, ecco, così allora, Parenzo riesce a cogliere questa mafioso, distinzione. Il mafioso che prima tu hai detto che gli è andato 120 anni. Sì. Io non lo rilascerei libero, ovviamente lo metterei al muro. Al muro, cioè. Un ragazzo che oggi. Cioè, fucilato, dici, fucilato. Faccia, un ragazzo che oggi tira dell'acido in faccia a una ragazza e la rovina. Sì. Io non lo metterei dentro, lo metterei al muro. Cioè, praticamente tu dici la pena di morte, in sostanza. Ci vuole la pena di morte. Una persona che, ma che c'entra col fascismo questo? Una è perché c'è un buonismo da parte della sinistra. C'è un buonismo, sì. Cioè, uno che si chiama questo qua? Scusami. Tarcisio, signor Tarcisio. Tarcisio, Tarcisio uno... Bertone conoscevo io. Allora, scusami, Tarcisio. Al che di là però di... non mi sembra, non credo sia lo stesso. Scusami, persona. Tarcisio. Uno che violenta invece? Uno che violenta una ragazzina va messo al muro. Sì, tutti al muro vanno messi. Sì. Molte persone al muro, sono cioè irrecuperabili. Cioè, una secondo persona te che prende, sì, la persona che prende 200 anni in carcere, vuol, sì, dire che sta dentro 200 anni, che cazzo la teniamo a fare? Cioè, tu dici possiamo risolvere il problema della popolazione carceraria, dell'affollamento delle carceri in maniera molto semplice, con la pena di morte, sì, mettendo al muro, sì, le persone. Intelligente questa, esatto, molto, molto, una persona molto arguta come cosa. Dici, una persona quando tu dici una persona intelligente, pensi a Tarcisio, che ha chiamato la Carlo da Milano, vai Carlo. Bene. Carlo, vai Carlo. Stava accendendo, sì, Tarcisio, no, si stava accendendo, no, si stava accendendo, sì, Tarcisio, sì, sì, Tarcisio, sì, ci sei ancora o no? Sì, ci sono, Parenzo, guarda, ti volevo chiedere una cosa. Sì, questo è Carlo, sì. Secondo te 100 euro per un bocchino, non sono Tarcisio, tanti? 100 euro? Di chi dici, per un, scusa, bocchino, non sono tanti? Ma che c'entra 100 euro per un bocchino? Ah, sì. Dottore, ma Parenzo, sono tanti, sì o no? Ma non lo sa, non sai i prezzi, Davide. Dottore, quest'ora l'isotto funghi pronto, l'isotto funghi plonto per il dottore. Ma che c'entra 100 euro adesso per un bocchino? Spiegami. L'isotto mantecato plonto. Alla moglie di Parenzo se mi ridà il resto. Ma perché non? Perché fai queste battute stupide? Una battuta stupide, che non fa neanche ridere, peraltro. Stupide, non fanno ridere, è un'offesa ridicola. Inutile, offesa, poi, stupido, cioè, non, sì, nemmeno un'offesa, cioè, hai prefigurato una situazione, tu moglie me fai è una roba proprio classica da Carlo, caserma, Milano, vai, da caserma. Sì, sì, sono io da Milano. Volevo solo rilevare così, veramente una mancanza di educazione, ma proprio fortissima da, sì, parte di Porec, che è il nome titino di Porec. No, se mai si dice Porec. Sì, lo so, ma io sono italiano, pronuncio male. Okay. Il problema sta che non si può trattare. Poi non è così. Titino, anche questo è sbagliato. Insomma, siamo lì vicini. Vabbè, Carlo, forse non ce ne frega un cazzo, dai. Vado avanti, esattamente. Ed è commesso due errori in 30 secondi. E ne commetterò un terzo, perché sì, una persona che si permette di trattare male, sì, la gente che lavora come quelli dell'autogrill, come chi fa la pasta, che la può fare non capisco perché uno deve fare la pasta, la può fare a forma di minchia, a forma di cavallo, a lì hanno il calco della sua testa, quindi lo fanno facilmente. Avendo il calco della avendo il calco della sua testa, possono farlo con quella formula lì, esatto. Possono fare la pasta con quella che ne hanno voglia, sono persone che lavorano, sono persone non radical razziste che si prendono la briga di offendere. A chi ti riferisci? Quello prima che vendeva la pasta? Quello che vendeva l'amico la pasta, Veschini, che, l'amico Veschini. Ma sì, l'amico Veschini, che tutto sommato, che cazzo Meschini, di male fa? Se Parenzo non è d'accordo Meschini sul fatto che uno vende la pasta con la forma del fascista, ma certamente come meritava, come meritava. Le peggiori merde di questo mondo che fanno tutti gli atti che fanno più cagare che si può capire, no? Chi? Questo io? Qui che fa la pasta, fa la pasta a forma del fascio. Una grande iniziativa imprenditoriale, come un genio dell'impresa che usa le sfigie intanto è un fascista che si è inventato una minchiata di proporzioni. Ha ragione. Ma guarda, ad ascoltare questa trasmissione, infatti prenderemo la sua effigie, il suo calco useremo la sua. Ad ascoltare questa trasmissione sembra che l'Italia sia popolata di fascisti, cioè, ma no, non è vero, se uno accende e dice ma vediamo cosa succede su radio, no? Un americano arriva qui per capire, immagina l'Italia popolata, in realtà sono quattro personaggetti abbandonati nelle case che restano a galla, sai cosa galleggia in genere, lei lo sa, galleggiano quelli come te d'inverno. Francesco da Brescia, andiamo avanti, meno male che lo Francesco da Brescia, vai, volevo dire al signor Parenzo, sentiamo questo qui così chiudiamo in bellezza, buonasera a lei, come si chiama questo? Francesco, vivendo da camerata, non è solo un pensiero, ma che vuol dire vivere da camerata? È una puttanata, dai Francesco, ma che vuol dire, dai, su, ma sei fuori dal mondo, dai, lui vabbè, ognuno è dove ma sì, puoi vivere come ti pare, vabbè, appunto. Allora, perché Parenzo dice che Benito ha una faccia di merda qua? Se ne deve assumere anche le responsabilità, perché non a tutti vanno bene queste cose. Ma che deve fare? Non ho capito, che vuoi fare? Vuoi picchiare? Forse lei non ha capito che il fascismo in questo paese, dichiararsi fascista, è un reato. Forse lei ancora non ce l'ha chiaro. Ma quale reato? Ma cosa stai dicendo? Mi dispiace per lei, allora, perché non ce l'ha chiaro. Comunisti, quelli che abbiamo al governo, che ci hanno ridotto in ancora questa maniera, scusa, ancora. Non è così. Vabbè, Francesco, qual è il punto? Non ho capito, qual è il punto? Hai una cattiveria dentro di te, probabilmente hai il cuore troppo vicino al buco del culo, Parenzo. Questo lo diceva già De André. Lo diceva già Fabrizio De André questo. Sì, lo diceva, ma per quello che tu stai copiando. Lo diceva De André parlando. Allora ragazzi, comunque hanno deciso. Ma che vuol dire assumere la responsabilità? Di fronte a quale tribunale? Ma che vuol dire? Arriveranno i momenti. Questa trasmissione ha la capacità di invertire le cose. Cioè di far passare per normale cose che normali non sono. E far passare per fascisti come normali che siano tali. Cioè è una cosa incredibile. Fermo, ragazzi. Come sapete, hanno deciso che durante il G7 non ci saranno sbarchi in tutta la Sicilia. Sicilia off limits per una settimana. Adesso, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Allora si può in qualche modo bloccare gli sbarchi. Cioè, capisci la ridicolaggine? Siccome c'è il G7, la Sicilia offre, e quelli che magari vogliono arrivare in Sicilia perché hanno bisogno e stanno morendo, e quelli che sono in pericolo, che fanno? Li dirottiamo su dove? Sulla Calabria? Mi pare sulla Sardegna? Una cosa è abbastanza una folle, puttanata inaudita che dimostra che il fatto i sette grandi che dimostra, fanno blocchi navali, però è pazzesco. Ma che dimostra il fatto, che dimostra che se uno vuole impedire lo sbarco di qualcuno, si può fare. Io sono sicuro che se le moto vedete le motovedette che saranno lì a pattugliare e a garantire la sicurezza dei cosiddetti sette, dei cosiddetti grandi. Dai, se dovessero vedere delle navi e dovessero avvistare delle navi in difficoltà, no, sono sicuro che mi auguro perché le terranno lontane, salvino delle vite umane, oltre a salvare, oltre a salvare i sette grandi della terra. Sergio da Alessandria, dai Sergio, per concludere. Vediamo. Sergio, avanti. 48 minuti, ragazzi, vai, dimmi, lo so, dai, dimmi. Facciamo lo Squirting Pride. Lo Squirting Pride, ottima idea. Ottima idea. Ecco, la grande idea in chiusura di trasmissione. Voi avete avuto un'idea, sì. Non vi siete resi conto del business che avete fatto oggi. Io ascoltavo, cioè? La radio, sai che metà mondo si vende e metà mondo si compra tutti i giorni. No? Sì, ma tu, bravo, che fai? Delle vendite da dove? Sì, vabbè, tutte da TV d'Italia, da anni. Beh. Ma tu sei famosissimo, Sergio, come ti chiami? Ma io ti... Zubaracco, sì, ma poi, amico mio, ti chiamo domani. Ti chiamo domani, te lo prometto. Quel numero ce l'abbiamo. Carta, io leggo qua, carta igienica con la sua faccia sopra, Parenzo. Quella sua di chi? Vuole i diritti, ma no, a te. Ma te li do. Ma te li vendo i diritti. Madonna. Ma io te li vendo i diritti. È un business pazzesco, domani parliamo. Se mi firmi un contratto te li vendo. Ciao Sergio, ciao. Ciao caro, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.